sui tetti come me, a far l'amore col tramonto, a cercare la vita fino in fondo, a sognare un futuro migliore, amare la pioggia ma credere nel sole, i tuoi occhi azzurri che si infilano di pianto quando le nubi oscure offuscano il cammino, la terra sotto i piedi ci invita ad andare lontano. Amore mio, siamo io e te nella lunga notte che ci separa dall'alba, nel lungo giorno che ci separa dal tramonto e dai baci felici che ci girano intorno, dalle risa sguaiate che ripudiano la guerra, dalle tante ingiustizie che sconvolgono la terra, dagli amori rubati, dalla vita delusa, dalla stanza sui tetti, da raccogliere una rosa, questa vita che a volte ci sembra normale, ma che sui tetti come me diventa speciale, tu sai perché, dai non cambiare, dai non cambiare, non cambiare, non cambiare. Sui tetti come me, se credi nella vita, se guardi il primo tempo come se fosse la partita, se pensi alle tue idee e all'entità da preservare, guardando il tuo futuro da costruire, cammini nel vento e cerchi una risposta, perché le tue domande hanno la faccia tosta, perché dentro i suoi occhi hai visto l'avvenire, mentre i suoi pensieri continuano a fluire. Stringimi forte, amore, stasera, come se fosse l'ultima notte di primavera, prima di rinascere nel sole del mattino, un raggio di luce, le teste sul cuscino, volano nel cielo nuvole di passaggio e inseguono la strada del prossimo miraggio, della prossima notte che passeremo insieme, di tutte quelle volte che ti ho voluto bene, questa vita che a volte ci sembra normale, ma che sui tetti come me diventa speciale, tu sai perché, dai non cambiare, dai non cambiare, non cambiare mai, dai non cambiare. Amore, stasera, come se fosse l'ultima notte di primavera, prima di rinascere nel sole del mattino, un raggio di luce, le teste sul cuscino, volano nel cielo nuvole di passaggio e inseguono la strada del prossimo miraggio, della prossima notte che passeremo insieme, di tutte quelle volte che ti ho voluto bere, questa vita che a volte ci sembra normale, ma che sui tetti come me diventa speciale, tu sai perché, dai non cambiare, dai non cambiare, non cambiare, non cambiare, non cambiare.